9 in punto, la versione di Oscar. Oh, cari ascoltatori, buon venerdì 23 di marzo, e ammesso che ve ne siano, ma qualcuno ve ne deve pure essere, auguri a chi porta il nome di Turibio, perché oggi è San Turibio secondo il calendario liturgico. Questi nomi mi hanno sempre appassionato, un giorno avrei pensato di darne qualcuno a dei figli miei, forse è per questo che il Padre Eterno non mi ha ancora messo in condizione di averli. Sarei stato un po' buon tempone nella scelta dei nomi, speriamo che non sia troppo tardi. In ogni caso, oggi, come vedete sui giornali, avete sentito dai giornali radio, dai telegiornali, l'atmosfera è ancora molto surriscaldata per via delle barriere opposte alla riforma del mercato del lavoro, che oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe assumere la veste del provvedimento finale definitivo, scegliendo un veicolo tra il decreto e il disegno di legge, e con la formulazione precisa per i diversi punti di modifica della flessibilità all'entrata. Ve l'ho già detto, a mio giudizio troppo brutto il giro di vite che restringe la flessibilità all'entrata, poi la flessibilità in uscita, quella che ha fatto, come sempre avviene sui totem, i feticci, i tabù, inalberare il più delle reazioni, e cioè l'articolo 18, e poi sulla distinzione tra tempi più brevi per la ristrutturazione delle imprese, intervenendo quindi a modifica del meccanismo che da cassa ordinaria integrazione a cassa in deroga arrivava fino a 3 anni, rispetto invece alla necessità sacrosanta, questo terzo punto mi vede molto favorevole, di individuare uno strumento di sostegno al reddito di chi perde il lavoro, l'assicurazione l'ASP si chiamerà, e per cui si alzeranno i contributi anche a chi oggi non li paga, lavori temporanei eccetera eccetera. E dopodiché il quarto pilastro della riforma del mercato del lavoro concerne norme più generali, come la sacrosanta norma che reintroduce il divieto di lettere di finte dimissioni all'assunzione. In realtà sono sempre state nulle, ma insomma un rafforzamento di questo come norme per la conciliazione dei tempi di lavoro. Avete visto qual è stato l'effetto dell'incendiario no che è venuto dalla CGIL e poi dal PD, poi dal fatto che la stessa CISL ieri si è sfilata dalla parte di accordo che riguarda l'articolo 18 sui licenziamenti economici, dicendo che bisogna riscriverlo. L'effetto di questo è stato che lo spread, che era arrivato a quota 285-286 nel giorno precedente, è riandato a quota 320. Inutile illudersi, non è una minaccia per lo spread. Giustamente voi potreste dirmi: chi se ne frega? Se ancora siamo a questo e non abbiamo capito, i dors a vita vi meritate, io non so che cosa dirvi. Dopodiché lo spread sta salendo perché c'è una seconda ragione. La seconda ragione è quella della concorrenza tensione che torna a salire sia in Spagna ma anche in paesi euro virtuosi come l'Olanda, la scoperta cioè che di fronte a 2-3 punti di PIL di miglioramento dei conti pubblici nei budget che devono presentare o nelle correzioni a quei bilanci, le opinioni pubbliche si stanno surriscaldando di nuovo un po' dovunque, in attesa che poi magari la vittoria di Hollande, del socialista Hollande, ad aprile faccia ripartire tutta la danza degli spread. Nel frattempo, a livello internazionale, la Cina è in forte rallentamento, in subuglio, con un contrasto di leadership interna per il suo 18° congresso nazionale del Partito Comunista Cinese, si tiene nella seconda parte dell'anno, ma le cifre della decrescita cinese verso il 7,5, non verso il 10%, raffreddano il commercio mondiale, e anche questo aiuta poco paesi ad alta esportazione come l'Italia, anche se il dato di ieri che è uscito per l'export italiano a febbraio è molto buono, perché le vendite extraeuropee sono cresciute a febbraio dell'11,8%, con un double digit, una crescita a doppia cifra per quello che riguarda il commercio nei confronti degli Stati Uniti. Ma oggi ci occupiamo di un altro atto fondamentale, importantissimo, che va all'esame del Consiglio dei Ministri. Che cosa oggi entra in Consiglio dei Ministri? La nuova delega fiscale. Allora, dei provvedimenti economici di questo governo, che è di corto orizzonte e di emergenza, è tecnico, dovrà lasciare la mano alle politiche, alle elezioni politiche poi della primavera dell'anno prossimo, dopo il governo Salva Italia, dopo l'intervento sulle liberalizzazioni, dopo questo intervento sul mercato del lavoro, è proprio il complesso di misure sulla parte fiscale, in realtà a costituire gli appuntamenti ancora più importanti che il mercato aspetta. Perché c'era una delega fiscale ereditata dal governo precedente, una delega fiscale con la quale si indicava l'orizzonte di modifica e di attenuazione dell'aliquota marginale del reddito sulle persone fisiche, doveva scendere dal 43% al 40% con due altre aliquote generali al 30% e al 20%, e a propria volta quella delega fiscale seguiva altre due deleghe fiscali fondamentali che il centrodestra nella storia degli ultimi 17 anni si era fatte dare: prima un libro bianco subito dopo le elezioni del 94, poi una delega anni dopo. Diciamo che la promessa che costituiva il punto di fondo del centrodestra all'inizio della sua parabola, quella di non andare oltre il 30, poi il 33% di aliquota marginale massima sul reddito delle persone fisiche, non è stata mai attuata, così come anche propositi generalmente indicati in quelle deleghe di passare dalla tassazione delle persone alle cose, cioè dall'imposizione diretta all'imposizione diretta, non si è mai vista. L'ultima delega ereditata dal centrodestra conteneva un impegno aggiuntivo molto importante, oltre al ridisegnare l'equilibrio generale delle imposte, e questo impegno concreto sull'abbattimento dell'aliquota del reddito delle persone fisiche finalizzava gli interventi aggiuntivi al sostegno della famiglia, delle imprese e del lavoro. La natalità era posta come primo obiettivo e identificava anche l'opera di disboscamento successiva a quella avviata dal governo del centrodestra con l'istituzione di quattro tavoli che hanno ricostituito, per così dire, hanno fatto un grande censimento generale su quali sono le tax expenditures, cioè quali sono il regime complessivo di deduzioni, detrazioni, abbattimento di imposta, esenzioni di imposta, attraverso le quali, con tutti questi regimi, l'ordinamento consente a finalità ritenute prioritarie o importanti di non assolvere o integralmente per aliquota o per soggetto rispetto ad esenzioni altrui aggiuntive il proprio dovere fiscale per il perseguimento di finalità che si ritengono importanti. E il totale, la somma di questa ricognizione che è stata fatta doveva essere disboscato appunto al fine di sostenere imprese e lavoro. La ricognizione è stata fatta, i quattro tavoli condotti nominati dal governo Tremonti hanno finito i loro lavori esattamente praticamente mentre nasceva il governo Monti. Ora la delega fiscale che entra in Consiglio dei Ministri di oggi è nuovamente un cambio di impostazione generale. È un cambio di impostazione generale perché? Perché innanzitutto non prenderà alcuna indicazione di abbattimento delle aliquote di nessuna imposta, né su quella sul reddito delle persone fisiche, né su quella dell'imposizione diretta, che nel frattempo è stata autorizzata a salire a ottobre sia nell'aliquota ordinaria dal 21 al 23%, sia in quelle sottostanti in caso di mancata copertura, proveniente esattamente dal taglio delle deduzioni e detrazioni che ereditiamo dal passato. Non si prende nella nuova delega che entra oggi in Consiglio dei Ministri nessun tipo di impegno di questo genere. C'è, è vero, ribadito per l'ennesima volta un impegno di passare dalla tassazione delle persone a quella delle cose, cioè dall'imposizione diretta all'imposizione indiretta. E se è così, non si capisce come Monti abbia detto poi due settimane fa in televisione che non alzerà l'IVA, immediatamente smentito peraltro da Vittorio Gridi, il vice ministro dell'economia, che è quello che davvero esercita la delega, che due sere dopo ha detto no, veramente, secondo me l'IVA, l'aumento è stato autorizzato e quindi scatterà. Dopodiché non si prendono quindi impegni sulle aliquote da diminuire, resta l'IRAP, questa è la novità. Si interviene nella tassazione del reddito d'impresa, a dire la verità, con un'impostazione che dice: ma le piccole imprese, il 99% si lamentano perché pagano tra 20 e 30 punti di aliquota reale superiore alle grandi imprese e alle banche. Interveniamo con una splittando la parte di reddito che si crea nell'impresa. Se l'imprenditore vuole diminuire il tax rate reale della sua impresa, allora se lo porti nel reddito personale, che quindi così salirà, quindi come ovvio è un principio dei vasi comunicanti, ma non è un vero abbattimento, e questo nuovo strumento al posto dell'IRES quindi si chiamerà IRI, che già ma un antistatalista come me fa venire i brividi alla sola idea che Vieri Ceriani, di ex Banca d'Italia, oggi sottosegretario, abbia scelto questo acronimo IRI, che è il simbolo di tutto quello che dovremmo considerare superato una volta per sempre, cioè il controllo da parte dello Stato nell'economia. Comunque questa IRI, che viene presentata come un aiuto alla piccola impresa, certo che può comportare un abbattimento del tax rate reale, nel senso che vi comporta un aumento del vostro reddito personale, che a quel punto vi portate in IRPEF. Il tema dell'abbattimento fiscale viene riservato nella delega alla creazione di un apposito fondo, un fondo che è l'ennesima riproposizione. Io l'ho contata 5 volte tra governi di centrodestra e già 2 volte dal governo tecnico, di uno strumento attraverso il quale l'anno successivo almeno parte dei proventi della lotta all'evasione vi verranno restituiti. Ricordatevi che è esattamente ciò che è già sparito nel decreto Salva Italia di questo governo. Prima ci doveva essere, poi non c'è più. Il più di questa delega è invece rivolto a un ennesimo potenziamento della lotta all'evasione, lotta all'elusione. Ci saranno i criteri per l'aumento ovviamente delle rendite catastali, che sono collegate alla nuova IMU, che tra poco sarete tutti chiamati a pagare. È promessa una norma, questa speriamo che sia scritta bene, per uscire da questo medievale sopruso che lo Stato ci ha riservato, dicendo che l'abuso del diritto è possibile solo da parte del contribuente verso lo Stato e mai dallo Stato nei confronti del contribuente, che è una delle tante prove con cui il tallone d'acciaio dello Stato ci schiaccia nella melma, dicendo che non abbiamo diritto di essere equiparati a lui, come ovvio. E poi ci sono anche tante altre cose in termini di semplificazioni promesse, in termini di controlli, sinergia con le altre banche dati, sanzioni, contenzioso, eccetera eccetera. Però la mia opinione, come avrete capito, è che abbandonando ogni orizzonte di abbattimento delle aliquote marginali e senza prendere impegni precisi su di quanto si abbassa l'imposizione sul reddito se si va su quella indiretta, perché ogni ordinamento dovrebbe avere un equilibrio preciso tra incentivi e disincentivi che esercita sul totale degli input-output produttivi di un paese, credo che finirà nello stesso modo con cui va avanti da 20 anni: più pressione fiscale, non solo con la storia della lotta all'evasione, ma per via degli equilibri di bilancio da dimostrare, e con questo sistema noi semplicemente rendiamo ancora più povera di ossigeno l'aria per quella parte del paese che è in piena legalità, che paga le tasse per tutti, che implora in ginocchio di poter avere almeno un contenzioso civile e non ce l'ha, e tutti felici e contenti se siete con lo Stato e lavorate con lo Stato, ma per il resto altrimenti mi sembra una via per il suicidio produttivo del paese. Uso parole dure perché, a dirvi la verità, avendovi ricordato qual è l'innalzamento dello spread se il sostegno politico al governo diventa irresponsabile, come sta avvenendo in queste ore sul mercato del lavoro, e avendo ben chiaro quindi che bisogna tenere presente questo rischio, mi chiedo sinceramente come il centrodestra, dopo essere venuto meno a tutte le sue promesse contratte con gli elettori in tanti anni, possa bersi anche questa. È vero che se uno è stato incoerente quando governava, può giustamente essere meno severo con le impostazioni ancora più lontane dalle proprie degli altri. Però, insomma, ho voluto dedicare questa trasmissione, Sto zitto d'ora in poi, a questa delega fiscale, che mi sembra davvero il passo decisivo dopo il quale nessuno potrà dire che dobbiamo abbattere spesa pubblica in molti punti e pressione fiscale in molti punti, come hanno puntualmente fatto i paesi che si sono rimessi in piedi, che stavano peggio di noi, a cominciare dal Germania, perché qui la contestuale parte fiscale a cui collegare una spending review che dica 5-6 punti di PIL di spesa pubblica meno in 4 anni, nella parte fiscale qui si abbandona deliberatamente ogni orizzonte di questo tipo, ergo sarà ancora più facile poi dirci che la spesa pubblica non bisogna scendere. Questo è l'errore di fondo a nostro giudizio, e per tutti coloro a nome dei quali stiamo parlando qua, di questa impostazione, non aver capito 20 anni di errori. Allora, vediamo come la pensano invece i nostri tecnici, che molto meglio di me possono rispondere alla domanda se questa delega fiscale è questa roba qua che vi ho detto io o tutt'altro e noi non abbiamo capito nulla. Sono con noi Luigi Casero, ex sottosegretario all'economia del governo Berlusconi, componente della Commissione Bilancio della Camera, che saluto e ringrazio. Buongiorno onorevole Casero. Buongiorno. Ed Enrico Zanetti, avete imparato a conoscerlo negli ultimi tempi, perché insieme al professor Lupi spesso a lui facciamo ricorso per illuminarci. E che cos'è? Il direttore di eutecne.info, un giornale online che ogni giorno abbiamo imparato a seguire. Stiamo nell'ambito dei dottori commercialisti italiani e quindi insomma coloro che lavorano in filiera tutti i giorni tentando di inseguire e rendere per noi comprensibile meglio l'evoluzione attraverso circolari, regolamenti eccetera di questo Moloch che è l'ordinamento tributario italiano. Buongiorno e grazie Enrico Zanetti. Buongiorno a lei, agli ascoltatori e all'onorevole Casero. Allora, onorevole Casero, che ci dice, che cosa ha capito e cosa si aspetta da questa delega, com'è rispetto a quelle precedenti, che cosa farà la sua parte politica? Ma che siamo molto delusi innanzitutto per una serie di ragioni. La prima, il governo secondo noi non doveva intervenire sulla delega fiscale. La delega fiscale, come tutte le deleghe, è uno strumento che ha una visione di medio-lungo periodo. Se non si hanno gli strumenti, come in questo momento molto evidente non ci sono gli strumenti finanziari per impostare un discorso di medio-lungo periodo, che deve essere un discorso, come si diceva prima, di riduzione delle tasse e di riduzione della spesa pubblica, definendolo poi nei vari aspetti, non bisogna presentare questo strumento. Questa delega manca innanzitutto di visione, di speranza sul futuro, di linea strategica. Se la linea strategica è il mantenimento della tassazione attuale, anzi l'innalzamento della tassazione attuale, questo paese andrà allo sbando e al baratro. Siamo delusi perché legando l'atteggiamento delle forze politiche e dei sindacati, che di una parte le forze politiche e i sindacati che stanno sostenendo le forze politiche e questo governo sul lavoro, e secondo noi un po' di debolezza dimostrata su questo tema dal governo negli ultimi giorni, con questo provvedimento si rischia di cambiare completamente strada da quell'indirizzo di politica di risanamento e di sviluppo che stava nella base del programma del governo Monti. Il governo Monti è partito con un certo passo, ha fatto Salva Italia con molta forza e molta aggressività, ha fatto le liberalizzazioni all'inizio con altrettanta forza, poi un po' molato, però sono passate le liberalizzazioni e devo dire che alla fine entrano un po' nello schema originario che ci si era dato. Su questi provvedimenti sta via via diminuendo lo spirito, e questo della delega fiscale è quello emblematico. Noi non avremmo toccato la vecchia delega, nel senso che comunque conteneva alcuni principi che erano principi che sono condivisi dalla maggioranza del paese e condivisi dalle forze produttive: la riduzione della pressione fiscale, il fatto ad esempio di abolire l'IRAP, è una tassa che tutti ritengono che debba essere tolta, che non si riesce a togliere nell'immediato per motivi di bilancio, ma che comunque deve essere tolta, e nello stesso tempo una mancanza di un'azione sulla spesa pubblica e sul debito, perché l'altra cosa che ci preoccupa è che non si parla più di riduzione del debito in questo paese, quando si sa che invece lo stock del debito può essere diminuito attraverso una vendita di patrimonio pubblico per riuscire a ridurre gli oneri degli interessi, quindi avere minor spesa pubblica, quindi maggiori possibilità per attuare una politica di riduzione delle tasse, che sono il vero cancro che sta uccidendo l'economia italiana. Questo per farci capire, ovviamente prima leggeremo il testo, noi abbiamo semplicemente parlato in base a ciò che è stato anticipato dei lavori preparatori, però i giornali ne avevano diffusamente pubblicato, per quello mi sono permesso di fare questa trasmissione prima del testo. Ma onorevole Casero, fino a che punto potrà spingersi l'azione del centrodestra, del PDL, nei confronti di un testo nei confronti dei quali lei ha anticipato critiche serie? Insomma, fino a che punto potrete arrivare, secondo lei? Questo vogliamo vedere come il testo sarà nel dettaglio e la possibilità di modifica in Parlamento. Ci sono anche alcuni step iniziali da verificare. Noi siamo molto preoccupati di quello che avverrà nel Paese al momento del pagamento dell'IMU a giugno, che colpirà pesantemente tutte le famiglie, e siamo ancora più preoccupati da questo aumento dell'IVA che dovrebbe avvenire a settembre. Adesso Grilli l'ha confermato, Monti l'ha smentito, però mi sembra che possa avvenire, se non si interviene come si pensava di intervenire, con una riduzione della parte di contribuzione alle imprese, alle famiglie, che dovrà essere rimodulate e ridefinite, perché questi due elementi, come è stato detto in partenza, aumentano la pressione senza andare a ridurre sempre la spesa, la pressione sulla parte dove essere ridotto. Noi prevedevamo anche noi, col passaggio della tassazione dalle persone alle cose, un aumento dell'IVA, ma una forte riduzione di tassazione, ad esempio sul lavoro, o sulle imprese, o comunque che dovrà esserci questa parificazione. In questo caso invece si porta un aumento di tassazione. Quindi noi vogliamo innanzitutto vedere in Parlamento, in Commissione, come si può intervenire su questo provvedimento e se si può intervenire, e poi valuteremo la situazione del caso. Devo dire che ci sono una serie di passaggi prima che sono ugualmente importanti. Questo problema del lavoro, vediamo anche in questo caso come andrà avanti. Noi abbiamo detto che il lavoro 15 giorni fa è una delle priorità per lo sviluppo di questo paese. Mi sembra che gli ultimi atti presi in questi giorni non vadano su questa linea. Allora, pubblicità e poi riprendiamo dopo aver ringraziato l'onorevole Casero con Enrico Zanetta. Allora, consentitemi, visto che stiamo parlando di delega fiscale nuova che entra oggi in Consiglio dei Ministri, niente più abbattimento delle aliquote, promessa di passare dalla tassazione delle persone alle cose, senza dire però con quale riequilibrio in abbattimento del reddito sulle persone fisiche, visto che viene assolutamente abolita la promessa invece di diminuire l'aliquota marginale sul reddito delle persone fisiche, intervento sul reddito di impresa che costerà al più tassazione e più reddito personale per i piccoli imprenditori che vorranno veder aiutata invece, e quindi diminuito quell'aggravio di 20-30 punti, talvolta anche 35, che pagano il tax reale in più rispetto alla grande impresa italiana, la vera beneficiaria di questo sistema fiscale. E che questa sia la radio di Confindustria non mi fa velo dirlo, che questo è lo scandalo numero uno dell'imposizione sulle persone giuridiche del nostro paese. Promessa ennesima di un nuovo fondo per la restituzione almeno di parte del incasso aggiuntivo della lotta all'evasione fiscale, esattamente quel fondo che è sparito, visto che se volevano farlo potevano farlo nel Salva Italia, lo hanno promesso, lo avevano scritto, poi è risparito perché la Ragioneria Generale e il Ministero dell'Economia si oppongono per dovere naturalmente salvaguardare i saldi, che fanno solo aumentando l'imposizione diretta, indiretta, contributiva, patrimoniale, e questa è la strada dei 20 anni alle nostre spalle. Questa strada va assolutamente invertita, questa strada va terminata, conclusa, va abbattuta. Questa è la prospettiva che impoverisce il nostro paese e divide con una odiosa, acuminata, quotidiana, implacabile campagna di odio sociale, che dice che la colpa di tutto questo è che se non si riesce a fare l'avanzo primario per via di maggiori entrate sarebbe vostra, sarebbe nostra, degli inguaribili, incalliti evasori fiscali, anomici sociali, eccetera eccetera. Cadere dopo 20 anni in questa campagna significa non negare il problema che esiste, cioè di un'evasione, di un'illegalità molto estesa, ma significa cadere nella trappola dello Stato succhia risorse, che ha sempre aumentato la spesa corrente, sempre incessantemente raccontato una cosa e fatto puntualmente un altro. Mi dispiace dirlo, il governo dei tecnici su questo, per la non riduzione della spesa e con questa delega fiscale, ricade in pieno nell'errore che sprofonda l'Italia nel suo orizzonte di mancata crescita e inevitabile doppia legalità. Perché a livelli così vampireschi, inevitabilmente tutti coloro che potranno si sottrarranno. Questa impostazione è un'impostazione virtuosa a parole, di fatto è l'impostazione che nega all'Italia di avere un fisco e uno Stato più civili, cioè meno estesi, meno pervasivi, più amichevoli nella compliance e più coordinati tra entrate e spese rispetto a ciò che si offre davvero al cittadino. Vi leggo questa lettera tra le tantissime ricevute. Carissimo Giannino, schiamo per segnalare l'ennesima prova che viviamo in uno Stato, vi lascio perdere quali sono i termini, comunque ladro è il più gentile. Il tema è l'IMU, è la falsità dell'equità sociale proclamata a principio ispiratore di questo governo, che si è dimostrato in realtà non troppo diverso da tutti i precedenti. La storia: mia madre è morta di cancro a 49 anni, era proprietaria della casa in cui vivevamo io, lei, mio papà. In quanto figlia ho quindi ereditato il 50% dell'immobile, continuando a viverci con mio padre. Dopo la laurea, per costruirmi una strada, dove ho dovuto lasciare la mia città. Genova e trasferirmi in un'altra dove tuttora vivo e ho costruito una famiglia. Mio padre ha continuato e tuttora vive nella casa di Genova, sua prima casa. Dato che si tratta di una classe A1, da notare che a Genova ci sono più A1 che a Milano e Roma messe assieme, abbiamo continuato a pagare l'ICI anche quando era stata abolita. Io ho dato incomodato gratuito a mio padre la mia quota di proprietà, così almeno lui, mio padre, poteva pagare l'ICI come prima casa, essendo la casa di sua residenza. Da notare che io non sono proprietaria nella città in cui vivo di nessuna prima casa, dato che risiedo in una casa in affitto. Adesso il governo Monti con l'IMU ha eliminato la possibilità di considerare prima casa l'immobile concesso in comodato gratuito a familiari in linea diretta, quindi mi ritrovo, o meglio, mio padre si ritrova, dato che è sempre accollato lui le spese della casa in cui vive, a dover pagare l'IMU come seconda casa, cioè esattamente il doppio, e con la rivalutazione catastale più la classificazione A1 che arriverà con la delega fiscale, quella di cui stiamo parlando oggi, si tratta di una differenza enorme. Le soluzioni che mi prospettano sono due: o costituire un usufrutto a favore di mio papà, costi alti per noi, enormi di notaio, imposta di registro, oppure spostare la mia residenza a Genova dividendo il mio nucleo familiare. In sintesi, secondo il governo devo pagare il doppio delle tasse, già una rapina in sé per sé, solo per aver avuto io la sfortuna di perdere la mamma a 18 anni. Se mia mamma fosse viva, l'immobile sarebbe prima casa. Dato che è morta, mio papà deve pagare l'IMU come seconda casa. Ecco, questa storia, che è la classica maniera di come la legislazione si inventi sempre nuovi strumenti per cavare il doppio, il triplo, il quadruplo da quelli che sono emersi alle tasse che pagano, è il rischio che noi sempre più corriamo. So che vi potrò apparire una voce fuori dal coro, probabilmente un pazzo esagitato, uno che su questi temi chissà come mai c'ha il pallino perché ha due società ed è a propria volta evidentemente o un potenziale evasore o un lavoratore autonomo che non riesce a ragionare sugli interessi di chi sta a casa. Io penso invece che 20 anni avrebbero dovuto dimostrarci che atti come la delega fiscale di oggi sono l'errore travolto da finta virtù, perché è travolto perché potrà essere buona fede, ma è invece l'errore capitale della politica economica italiana. Sentiamo invece cosa ne pensa Enrico Zanetti, commercialista, direttore di eutecne.info. Ma allora, diciamo subito che questa delega fiscale è molto diversa da quello che magari ci si può aspettare immaginando un provvedimento di riordino complessivo del nostro fisco, come in effetti era almeno nelle intenzioni la delega precedente, la legge delega che fu varata nel 2003, ancorché poi in larghissima parte lasciata incompiuta. E qui siamo di fronte a un provvedimento che non finge nemmeno di ammantarsi di una finalità del genere e mette in fila una serie di interventi, alcuni magari anche condivisibili, si è detto per ad esempio della restituzione con un apposito fondo dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione ai cittadini, altri invece magari meno tutto sommato convincenti, e mi riferisco in parte proprio anche a certe norme che vanno a rivedere la disciplina del reddito d'impresa. Di fatto però, ripeto, stiamo parlando di qualcosa che non è una riforma organica, ma che nemmeno prova ad apparire tale. Se proprio dovessi dire, l'impressione è che in questo momento il governo interviene per punti: quelli che interessano all'erario li mette nei decreti legge, quelli che servono a tranquillizzare i cittadini li mette in disegni di legge delega che poi campa a cavallo. Ecco, quindi devo dire un giudizio molto più sobrio, conciso e con tono conciliante del mio, ma non troppo stroncante in termini diversi, non troppo stroncante in meno. Allora, sentiamo invece cosa ne pensa una voce più ragionevole della mia, più equilibrata della mia, ed è per questo che lavora in un grande giornale dove scrive da anni con equilibrio e rigore, cosa che naturalmente è noto nella vita dei grandi giornali, sono sempre stati alla larga da me. Stiamo parlando del mio amico Alessandro Barbera, scrive sulla Stampa e gli chiedo che opinione si è fatta di quello che si è letto nella anticipazione del testo che va oggi in Consiglio dei Ministri della delega fiscale. Ma intanto buongiorno, devo dire che il mio giudizio non è molto diverso da quello che abbiamo appena ascoltato. Evidentemente il governo ha deciso di mettere da parte qualunque velleità, evidentemente la considerava tale, di riduzione del carico fiscale nel breve periodo. L'unico riferimento a una riduzione delle tasse sta in questa, nella possibilità di fare partire questo fondo per la riduzione delle tasse, che verrà sostanzialmente alimentato dai fondi strutturali proventi dalla lotta all'evasione, e per il resto di fatto sembra come dire, l'attestazione di un fallimento, dell'impossibilità di dire che è possibile abbassare le tasse in questo momento, che l'erario ha bisogno di avere più denaro, e fino a quando non si taglierà la spesa non si può sperare che le tasse scendano. Bisogna dire però un'altra cosa, e cioè, e questo va dato atto al governo, nell'aumentare sostanzialmente il carico fiscale il governo ha finalmente preso la strada che il governo Berlusconi, sulla quale il governo Berlusconi era stato estremamente contraddittorio, perché in tutto il mondo è vero che la tassazione deve passare dalle persone alle cose. Una delega che il ministro Tremonti fece nel lontano 1994 diceva che così doveva essere, però poi il primo atto del governo Berlusconi fu, e non fu un atto particolarmente coerente, togliere di mezzo l'ICI. Beh, insomma, questo governo di fatto ci sta dicendo che la tassazione si deve spostare sulle cose, sul patrimonio e quindi essenzialmente sulla casa, e che per poter ridurre il carico fiscale in futuro, sperabilmente, sulle persone fisiche, bisogna aumentare quello sulla casa. Di questo occorre tenere conto. Poi naturalmente le storture che tu, Oscar, racconti sono assolutamente... come dire, vanno, bisogna tenerne conto, e certamente sono situazioni limite che vanno prese in considerazione, però è altrettanto vero che in tutto il mondo sulla casa si pagano un sacco di tasse, in Italia fino a pochi mesi fa non si pagava più nulla. Ho capito, però nel frattempo, in questo continuare a dirci senza farlo mai che si passa dalla tassazione delle persone a quella delle cose, loro nel frattempo, ripeto, a delibera già presa dell'aumento dell'IVA, e Grilli ci ha ricordato che è già lì e scatterà, si mette mano anche alle patrimoniali in aggiunta sulle cose, ma nel frattempo persone fisiche non scende mai, e i contributi salgono solo, sono saliti di 3.4 complessivamente negli ultimi 18 mesi per artigiani e commercianti, salgono ulteriormente con la riforma del lavoro per finanziare l'ASPI, e quindi nel frattempo lo Stato promette, ma quello che porta a casa è sempre solo l'aumento su ogni tipo di imposta. Questa maniera di concepire il rapporto bilaterale tra le promesse e i fatti, la mia opinione è che scassa ogni possibilità di compliance, cioè di adesione libera, spontanea all'ordinamento, più vicina allo spirito del pieno assolvimento del proprio dovere fiscale. Perché è lo Stato che la compromette sistematicamente da decenni, comportandosi, dal suo punto di vista, esattamente come l'evasore fiscale fa nei suoi confronti, cioè dicendo una cosa e facendone un'altra. Il doppio volto, essere Giano Bifronte, l'incoerenza, il mendacio e il sopruso sono, dal punto di vista del comportamento reciproco, in totale simmetria. Tra l'ordinamento tributario e l'evasore io non vedo più alcuna differenza, con la differenza che la cogenza del diritto è propugnata e proclamata dallo Stato, non certo dall'evasore, e quindi io e i tanti come me e milioni di italiani non possono che grattarsi sempre più perplessi la testa. Se neanche il governo dei tecnici riesce a indicare una prospettiva pluriennale da consegnare poi ai suoi successori di taglio di 5-6 punti di PIL di spesa pubblica a cui parametrare, inchiavardare, incatenare la diminuzione di pressione di cui c'è bisogno, chi ci può riuscire in questo paese? Temo nessuno, e allora però non lamentiamoci se poi la crescita italiana diventa quello che è, cioè sempre più a segno meno. Antonio dalla provincia di Chieti, che ne pensa? Pronto, molto grazie di farmi intervenire. Insomma, le volevo fare i complimenti perché lei riesce a parlare della più grande tragedia che vive l'Italia facendoci anche sorridere, cioè, su sarcasmo intelligente. No, io volevo, la questione delle tasse non mi appassiona, sono molto d'accordo con lei, dico che è uno Stato che non riesce a farsi pagare le tasse perché non riesce ad appassionare il cittadino ai suoi servizi, alla sua spending review che ci viene promessa ma in realtà non viene mai attuata. Invece io volevo parlare dell'IMU e sono molto d'accordo con quello che dicevano sia Casero che il collega della stampa. Cioè credo che dopo l'aberrante decisione del 2008 che sia Berlusconi ma in verità anche Prodi avevano annunciato di togliere l'ICI, io sono stato sindaco del mio paese per 10 anni e sull'ICI ogni comune italiano aveva raggiunto una sorta di equilibrio. Della sua capacità di essere autonomo finanziariamente? Beh, di assicurare i servizi essenziali. Non dimentichiamo che lì c'era stato, come dire, attribuito come imposta comunale in sostituzione di trasferimenti dallo Stato centrale. Io credo invece che con l'IMU il governo Monti realizza il federalismo al contrario. Sta tassando i patrimoni con la mano dei sindaci, perché adesso i cittadini, sono d'accordo con il giornalista della Stampa, scopriranno a giugno che quanto è veramente triste la nuova IMU. Come no. Ed è triste il fatto che i comuni abbiano la possibilità di manovrare su questa tassa, ma non sulla parte che va allo Stato. Cioè i comuni possono decidere di regalare, tra virgolette, alle prime case, alle seconde case, ai D, parte del loro gettito, salvaguardando quel 3,8% che comunque deve andare allo Stato. Che comunque lo Stato si prende. Quindi da questo punto di vista lei dice il federalismo al contrario. Non ha torto, secondo me. E mentre riparte i Doors, riparte The End of the Doors, sentiamo che ne pensa Antonio, che ci chiama da Perugia. Prego Antonio. Buongiorno. Buongiorno. Ma io volevo raccontare un episodio. Io sono sposato, mia moglie è americana e vive qui in Italia con me, e martedì ha fatto la sua denuncia dei redditi online, quindi si è collegata al sito. Cioè, è molto complicata anche lì la denuncia dei redditi, però ultimato il suo lavoro, durato forse 2-3 ore, lei, mia moglie, è un'impiegata dell'università, ma ha proprietà personali, patrimoniali, quindi ha dovuto integrare la denuncia con molti dati. Alla fine della denuncia lei ha cliccato, dopo 40 secondi le è arrivata la risposta di congratulazioni, perché la sua denuncia era stata accettata ed era formalmente a posto, e poi con l'annuncio che entro 72, siccome era credito d'imposta, entro 72 ore il suo credito sarebbe stato liquidato. 40 secondi oggi per l'accettazione, 72 ore per la liquidazione, per poi la mi liquidazione. Dicono perché l'America è un grande paese. Ecco, io volevo solo aggiungere questo. Io sono un libero professionista, figlio di una pensionata, mia madre spende 1000 euro l'anno per fare la sua denuncia dei redditi. Io non le dico quanto spendo per il mio commercialista, perché chiaramente non sono in grado di farlo da solo per tutte le complicazioni. Le dico anche che da poco sono stato nominato presidente di un conservatorio e mi si è aperto un mondo del quale forse una volta si potrebbe parlare, che mi fa capire e mi spiega il perché di questa nostra condizione, che lei descrive sempre con molta passione, anzi eccitandosi ancora di più. No, ma io mi esito semplicemente reazioni, perché di solito sono di riprovazione, ma quello che mi colpisce l'attitudine da sudditi con cui ci becchiamo oramai tutto questo, cioè siamo fatalisticamente rassegnati. Noi non amiamo la libertà, non amiamo la democrazia, esattamente questo, noi siamo un popolo di sudditi. Io penso che purtroppo sia un po' il fatalismo, rassegnarsi a che lo Stato sia così, ma non è vero che ovunque così, cioè il Regno Unito dal 1 aprile scende la corporate tax, cioè l'aliquota sulle imposte, le persone giuridiche, scende dal 26 al 24%, dopodiché scende al 22% nel 2014 e al 20% 2 anni dopo ancora. Questo è l'orizzonte pluriennale di abbattimento di paesi civili. Noi di questo ci pensiamo incapaci, ma è perché lo Stato nel frattempo fa di tutti questi soldi cosa ben diversa da chi ripete il mantra che tagliare la spesa pubblica è tagliare la spesa sociale. La spesa sociale è meno del 26% del PIL rispetto al 52%, il resto è tutta roba che si può ridurre senza follie, senza buttare la gente sull'astrico, ma di molti e molti e molti punti. E invece no, invece continuiamo a vivere in un paese in cui facciamo la riforma dell'articolo 18 e scopriamo poi che agli statali invece non si applica. Domanda: perché, visto che lo Stato è nelle condizioni, per il suo fallimento economico, di prenderci sempre di più, non ci sono evidenti ragioni economiche per mettere mano a una equilibrata e ragionevole revisione profonda delle piante organiche? Non sto dicendo buttando la gente sull'astrico, ma perché il lavoratore deve essere diviso in due, come la discesa dei treni ad Auschwitz, tra i noi privati, che saremmo invece quelli che portano la stella e dobbiamo andare ai forni, e gli altri che invece no? Questa è la fine della mia domanda di oggi. Lo so, ne avevo parlato forse in termini un po' poco tecnici della delega fiscale che entra oggi in Consiglio dei Ministri, ma quando leggerete sui giornali flautatamente che è tutto bene e che sono tasse in meno, non crederci, è una palla assoluta. Grazie agli ospiti e appuntamento. Mi scusino perché li ho coinvolti in una mega appassionata, purtroppo, accusa contro lo Stato, loro ne sono incolpevoli, per noi appuntamento invece a lunedì.